America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ci stiamo avvicinando al fine settimana, dunque voglio chiudere questa settimana che devo dire è stata una settimana piuttosto intensa dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, con le sorprese dell'Alabama, del Mississippi, dal punto di vista tragico con quel che è successo in Afghanistan. Ecco, vorrei chiudere questa settimana con qualcosa di più leggero. Vorrei parlarvi di film, di un paio di film che sono usciti in America proprio in questi giorni. Obama just changed the entire dynamic. It is a change year, sir. We need to create a dynamic moment in this campaign. Game Change è un grande film, devo dire, un film divertente, un film intelligente, un film denso di colpi di scena che racconta un momento molto particolare della campagna elettorale di 4 anni fa, il momento in cui la campagna di John McCain decide di scegliere come compagno di corsa per il nominee repubblicano Sarah Palin, il governatore dell'Alaska. Romney, Pawlenty, trying to vet Bloomberg. Who can we win with? None of them. We desperately need a game-changing pick. And none of these middle-aged white guys are game-changers. So find me a woman. Grande colpo di scena, improvvisamente si torna indietro nel tempo. Devo dire, vedere in un film una campagna elettorale che mi è capitato di vivere in prima persona nel momento in cui ci troviamo in mezzo a una nuova campagna elettorale, beh, è una sensazione alquanto particolare, interessante, stimolante e soprattutto fa riaffiorare una gran quantità di paralleli. Ci si rende conto, per esempio, come a questo punto, nel momento in cui ci troviamo adesso della campagna elettorale, in realtà era perfettamente normale che la situazione fosse ancora confusa. She's a bigger star than Obama. We can really win this thing. We are elected. You will have a friend and advocate in the White House. If you really think I can help this country, then absolutely. I'll do this with you. Ecco, avete sentito la voce di Sarah Palin interpretata in modo magistrale da Julianne Moore. Quel momento è stato un momento molto particolare perché ha sconvolto un po' la dinamica della campagna elettorale. La campagna di Obama non si sarebbe mai aspettata di avere come concorrente per la vicepresidenza una donna, soprattutto una donna semi sconosciuta come poteva essere il governatore dell'Alaska. La campagna di Obama fu presa in contropiede da questa scelta. I sondaggi improvvisamente si spostarono su McCain. Ci fu un momento di fortuna per questa scelta, fino a che poi non ci fu il disastro, perché il film ripercorre con grande accuratezza la grande ignoranza, impreparazione di Sarah Palin. I'm not sure how much she knows about foreign policy. You can actually see Russia from land here in Alaska. Oh my God, what have we done? It wasn't my fault. I wasn't properly prepped. Sarah Palin, che però ha poi il peccato originale di insistere, di voler andare avanti, assolutamente determinata, e Sarah Palin che ha la dote straordinaria di far presa sull'immaginario collettivo dei repubblicani. La determinazione, l'aspetto fisico, una donna attraente, la grinta, il coraggio non sono da poco e ci fanno riflettere, perché in questa campagna elettorale ci sono dei candidati, forse l'unico potrebbe essere Santorum in qualche modo, che ha la passione che dovrebbe essere tipica di un candidato politico che vuole imporsi soprattutto a livello presidenziale in una corsa per la Casa Bianca negli Stati Uniti d'America, ma gli altri due, Gingrich e Mitt Romney, non hanno quella patina di aggressività che vorremmo trovare in ogni candidato. Dear Dr. Jones, I act on behalf of a client who has indicated a desire to introduce the sport of salmon fishing into the Yemen. Salmon Fishing in the Yemen. Chiudiamo con un film scacciapensieri, con un film leggero, con una commedia romantica divertente. Racconta la storia di uno sceicco che decide di portare la pesca del salmone nello Yemen e riesce a coinvolgere un rigido scienziato scozzese in questa sua missione, in una storia romantica dove naturalmente c'è un personaggio femminile di un certo fascino che riesce a conquistare stare a sorpresa il professore. As a fisheries specialist, this is plainly ridiculous. There's just no way that salmon can survive in those sort of environments. I thank you for your time, Mrs. Chetwood Talbot. I'll see myself out. Goodbye. Devo dire, sono stato a vedere questo film, sono stato a vedere l'anteprima, sono stato anche al party dove c'erano gli attori protagonisti di questo film, Ewan McGregor e Emily Blunt. Li avrete visti sicuramente in molti altri film, sono due attori molto conosciuti. Cominciamo con una chiacchierata con Ewan McGregor. That's the whole point of my character. He's a very different man at the end of the movie from the beginning. Chiedo a McGregor, che interpreta il ruolo dello scienziato, dire uno scienziato che si trasforma da molto metodico, molto serio, a avventuroso e soprattutto innamorato perdutamente di una ragazza che sarebbe stata per lui impossibile, se interpretare un ruolo di questo genere in cui il personaggio cambia così drasticamente è molto difficile come attore. E dice sì, è un po' la chiave del mio personaggio, dice alla fine del film abbiamo un uomo molto diverso da quello che era all'inizio e lo vediamo nel modo di vestire, nel modo di pettinarsi, persino l'accento cambia. He's very easy to fall in love with, the Sheik, but I think he already had plenty of wives, so that might be why. Emily Blunt aveva recitato nel Diavolo Veste Prada. Le chiedo, prima si innamora di un soldato in questo film, poi di uno scienziato, ma come mai non sei innamorata di questo sceicco che oltre a essere ricchissimo è anche un bell'uomo? Beh, dice, sarebbe stata molto facile innamorarsi dello sceicco, però aveva già abbastanza mogli perché un personaggio come il mio potesse trovare spazio adeguato. I think you can do LA the right way if you know where to go and you know and if you have a life outside of the business. It's really fun. Ecco, ho fatto a Emily Blunt una domanda un po' da solo andata. Le chiedo com'è vivere a Los Angeles. Vive a Los Angeles da 3 anni, è arrivata dalla Gran Bretagna, arrivata dall'Inghilterra, e dunque le chiedo che cosa è stato per lei questo passaggio e questa ricerca della nuova frontiera. Mi risponde che sta benissimo a Los Angeles. Los Angeles è un sogno, dice, non è male, soprattutto quando conosci i posti dove andare se hai una vita fuori dal tuo lavoro, perché il lavoro, pur sembrando interessante e affascinante, alla fine diventa routine. Los Angeles è una città molto divertente, ho moltissimi amici, passo il tempo con loro, vado al ristorante, vado a vedere musei, gallerie d'arte, è questo che mi piace fare nel tempo libero ed è questo che si può fare in una città come Los Angeles. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive i tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Secondo la classifica di Billboard, nel 2011 Taylor Swift è stata la musicista più pagata negli Stati Uniti. La cantante country, pensate, appena 22 anni, ha guadagnato l'anno scorso 35,7 milioni di dollari. E dunque a lei, a questa sua fortuna, dedichiamo la canzone del giorno di Taylor Swift, Mean. Someday I'll be living in a big old city and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough so you can't hit me and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.